dea Yahweh, Signore nostro Re. Date lode a Yahweh, Signore Re. Date lode al Signore, alleluia. Gloria a Lui per l'infinita potenza. Gloria a Lui per i Suoi prodigi. Gloria a Lui per l'immensa grandezza. Date lode a Yahweh, Signore nostro Re. Date lode a Yahweh, Signore Re. Date lode al Signore, alleluia. Gloria a Lui con i suoni di tromba. Gloria a Lui con le cetre e le arpe. Gloria a Lui coi tamburi e le danze. Date lode a Yahweh, Signore nostro Re. Date lode a Yahweh, Signore Re. Date lode al Signore, alleluia. Gloria a Lui con le viole e i liuti. Gloria a Lui sulle corde e coi flauti. Gloria a Lui con fragori e squilli. Date lode a Yahweh, Signore nostro Re. Date lode a Yahweh, Signore Re. Date lode al Signore, alleluia. Gloria a Lui, tutti insieme strumenti. Gloria a Lui, salga da ogni respiro. Gloria a Lui, canti ogni vivente. Date lode a Yahweh, Signore nostro Re. Date lode a Yahweh, Signore Re.